quelli che incontriamo per caso o per destino. Non è gente qualunque che ti passa vicino, sono stelle cadute da posti senza nome che deviano la retta che lega mente e cuore. E non c'è mai giustizia tra l'avere e il dare, provare dei sussulti senza definizione. Allerta i sensori di integrità morale, quando è tutto concesso sia a comandare il cuore. Straziante non poter fermare il tempo, lasciare che l'incanto duri il tempo di un tramonto. Dammi un segnale forte, giocare senza regole può essere massacrante, riuscire a stare un passo dietro tutta l'altra gente, sapendo che comunque sei la cosa più importante. Tuffarsi da 2 metri, comunque un po' volare, ci vuole del coraggio e disinibizione. Rubare una carezza, lo so, non è il tuo stile, può far bruciare meno le schegge che hai nel cuore. Può essere un sollievo lasciarsi smascherare, non è per debolezza che ci si lascia andare. Se avessi tempo e fiato non proverei timore di intrecciare male il senso e le parole.